Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Molte di loro si erano tenute addosso il grembiule ed erano rimaste in piedi perché temevano che se si fossero accomodate sulle panche l'assemblea sarebbe durata di più, mentre non vedevano l'ora di andare via. Erano uno spettacolo triste, con la faccia spaventata e la frenesia in corpo, divise fra l'angoscia di perdere il lavoro e le responsabilità familiari. Avrebbero voluto aprirsi a metà, una parte lì in fabbrica a salvare il salario, l'altra a pulire nasi gocciolanti e a mettere una minestra in tavola. Il grigio dominava su tutto, nei grembiuli, sui muri bisognosi di tinteggiatura, fra i capelli delle colleghe appena passata la trentina, nelle mezze lune sotto gli occhi. Nina pensava di essere condannata a quella tinta mesta. Come il brefotrofio, anche la fabbrica era priva di colori. Sia mai che una macchia di rosso, giallo o blu alleggerisse la curpezza del posto. Le operaie ne erano assuefatte e non la sentivano più. Se ne ricordavano solo fuori dalla fabbrica, specialmente se entravano in un negozio. La gente le guardava come appestate e faceva un passo indietro. Alcuni arrivavano addirittura a sventolarsi vistosamente o uscire all'aperto in cerca d'aria. Che ci potevano fare se avevano la pelle impregnata della merce che maneggiavano? Durante la prima settimana a Nina era mancato il fiato, poi ci aveva fatto l'abitudine, ma era convinta che la puzza fosse solo uno dei motivi per cui le persone si allontanavano al loro passaggio. Le tabacchine erano considerate delle poco di buono, oltremodo disinibite, passavano troppo tempo fuori casa, nei periodi di maggiore attività, anche 7 giorni su 7, trascuravano la famiglia, non santificavano le feste, ridevano, fumavano in pubblico, uscivano e rientravano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Una ragazza in bilico fra un passato doloroso di abbandono e di marginalità ed un presente in cui ha di fronte a sé la possibilità di diventare protagonista della propria vita, ma di cui ha molta paura. Una ragazza che ha vissuto in un orfanotrofio sotto il rigido controllo delle monache che imponevano alle bambine di dormire con le braccia fuori dalle coperte, tanto in estate quanto in inverno, per essere sicure che non cadessero nella tentazione di scoprire il proprio corpo. E poi si è ritrovata al tavolo di lavoro di una manifattura tabacchi in cui c'era sempre qualcuno, questa volta un controllore della qualità o una caporeparto, a controllare le sue mani, anche se per verificare lo svolgimento del suo lavoro sulle foglie di tabacco, mentre procedeva con operazioni come l'approntamento per la separazione delle foglie, la spullardura per selezionare il tabacco migliore e poi la pulizia, con tanti prodotti chimici per curare la pianta e poca attenzione per la salute delle lavoratrici. Una ragazza che nel 1968 si chiede, parafrasando un celebre slogan del Maggio francese, se quanto sta vivendo non sia soltanto che un inizio, quando lei si sente una persona senza storia e senza memoria, perché non sa chi siano i propri genitori e che quindi è incapace di vedere il futuro. Una ragazza di carta, Nina, che la redazione di Balloon, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujiko, realizzata da Olga, Lara, Debs, Perry e Frey, che oggi vi racconterà, chiacchierando con la sua autrice Simona Baldelli, come sempre, per fare incontrare storia, letteratura, politica e ovviamente sogni. Il Pozzo delle Bambole è un romanzo che mi ha catturato come probabilmente non succedeva da tempo. Presentarlo qui in radio è una maniera per condividere qualcosa che mi è piaciuto, ovviamente, ma allo stesso tempo presentare un libro che mette le mani, come piace a noi, su delle storie che possono intrecciare il percorso di vita di donne e uomini con la grande storia. La prospettiva attraverso la quale Simona Baldelli ha deciso di raccontare la grande storia, e in particolare quel passaggio che va dai lunghi anni 60 del boom economico al 68, è molto interessante. Protagonista del libro è Nina, una ragazza che alle soglie del 68 ha 20 anni e sta scoprendo di fatto il mondo dal tavolo di lavoro nella manifattura tabacchi di Lanciano in cui è impiegata come operaia, una delle tante tabacchine di cui parleremo più avanti. Nina ha alle spalle un'infanzia e un'adolescenza di grande sofferenza, essendo stata una trovatella, ovvero una bambina lasciata sul torno di un brefotrofio. Nina è impaurita dal mondo, Spesso non lo capisce e si trova costretta, già grande, a dover ricorrere ad un quaderno per segnare le parole che non conosce, sentendosi costantemente in difetto rispetto agli altri. Gli anni passati in mezzo a trovatelli come lei e ad altri orfani le hanno lasciato addosso un'enorme difficoltà nell'entrare in relazione con il prossimo, nel fidarsi, nel provare sentimenti. I duri rituali di penitenza, l'ossessivo controllo esercitato dalle suore sui loro corpi, prima ancora che sulle loro anime, la solitudine, le hanno insegnato che dall'altro non ci si deve aspettare nulla, pena un'enorme delusione. I need to find the time to make it up to you. No, I can't blame you for not wanting to be my friend. Yeah, you know I've said sorry so many, many times before. So here's the apology that you've been waiting for. Like, have you ever cried under your weeping willow? Or buried your head deep into the soul of your pillow? Have you ever had a quart of tears? Il primo spazio che incontriamo all'interno del romanzo è quindi quello dell'orfanatrofio. Eliminati definitivamente nel 2006 per applicazione della legge 149 del 2001 che prevedeva la creazione di nuove strutture come le case famiglia, gli orfanatrofi sono stati per secoli delle componenti urbanistiche ricorrenti in ogni città. Spesso gestiti da ordini religiosi, erano luoghi in cui si trovavano a vivere i cosiddetti trovatelli, od orfani che non potevano essere curati da altri familiari dopo la morte di uno o più genitori. Come ricorda lo storico Matteo D'Alena, quella dell'infanzia abbandonata fu per secoli uno dei principali problemi delle comunità, che se si preoccupava di avere delle forme per evitare la morte a bambine e bambine nati in un contesto di povertà o in relazioni extraconiugali, mostrava nei loro confronti un profondo disprezzo, coniando, a seconda di diversi contesti, una serie di epiteti come trovatelli, gettatelli, bastardini o ancora esposti o proietti, a sottolineare l'atto dell'abbandono, del loro ritrovamento o del loro ricovero in appositi spazi d'accoglienza. Per quanto sia difficile fare delle statistiche, si può considerare che oltre all'incubo della povertà, dietro l'abbandono dei figli c'erano per l'appunto relazioni extraconiugali che avevano portato ad una gravidanza, il cui peso ricadeva esclusivamente sulla donna, ma anche le diffuse violenze e abusi cui erano sottoposte soprattutto contadine, filatrici, cameriere e sarte. L'esposizione dei bambini sulle ruote fu un'alternativa, a fronte del fallimento di una pratica abortiva, rispetto all'infanticidio cui molte donne si trovavano costrette a ricorrere. Ma come dicevamo, il fenomeno prese un'ampiezza notevole, a partire dal XVIII secolo, con un grande impulso durante l'Ottocento, a seguito di grandi epidemie come quelle del colera e del vaiolo, nonché dell'aggravarsi delle problematiche sociali, perdurando inalterato fino al Novecento. Anche durante il fascismo, nonostante il forte familismo imposto alla società, il regime non riuscì ad impedire come avrebbe voluto il meccanismo dell'esposizione. La manifattura tabacchi, altro sfondo del romanzo, è un luogo altrettanto interessante e ricco. Quello del tabacco è un comparto che per anni è sostanzialmente rimasto immobile nel tempo. Pur alternandosi le generazioni, le dinamiche sono sempre restate invariate. Una manodopera sostanzialmente femminile, con un lavoro spesso passato di madre in figlia e un clima di lavoro fortemente nocivo. Nelle manifatture, infatti, ad inizio Novecento, si pensava che fosse meglio assegnare il lavoro alle donne, perché considerate più precise ed attente ad una lavorazione che in buona parte veniva svolta manualmente, nonostante la progressiva meccanizzazione della produzione. Operazioni fondamentali come l'arrotolamento manuale dei sigari, per anni cuore della produzione, erano tutte svolte da file di donne sedute ad un unico tavolone, sottoposte ad un rigido controllo e a un ritmo di lavoro basato sul cottimo. Le condizioni contrattuali erano generalmente abbastanza buone per stipendi e indennità di pensione, ma erano pur sempre lavoratrici di un comparto particolarmente esposto dal punto di vista delle malattie professionali, fra cui soprattutto l'alto tasso di abortività causato dall'esposizione al tabacco. Data la forte presenza di manodopera femminile, venne istituita molto presto una sorta di welfare aziendale, con la presenza di asili nido, come se fosse una sorta di contraltare alla nocività e alla possibilità di impiegare le operaie anche in fase di allattamento. Nonostante le condizioni lavorative non ottimali, l'impiego in manifattura è stato per anni considerato molto ambito, in quanto una delle poche professioni accessibili alle donne è capace di garantire stabilità salariale e di forme di autonomia economica. Le operaie per questo erano solite inviare lettere di raccomandazione e di richieste alla direzione per essere assunte o per far impiegare le proprie parenti. Le sigaraie o le tabacchine, come spesso sono state chiamate le operaie dei tabacchifici, sono state molto compatte nelle richieste e nelle mobilitazioni sindacali. Nel corso del Novecento le loro lotte sono state molto dure, lunghe e combattute e avevano come obiettivo la regolamentazione dei cottimi e delle ore di straordinario, fuori le 7 ore giornaliere. Poi, come raccontato nel Pozzo delle Bambole, la difesa del posto di lavoro. Il cambiamento del gusto, che vide gli storici sigari essere consumati meno rispetto alle sigarette, portò ad un cambiamento della produzione, che poteva essere meccanizzata, portando così ad una progressiva riduzione delle operaie. La fine dei grandi monopoli di Stato e la chiusura delle manifatture hanno fatto poi il resto, portando alla quasi scomparsa di una delle colonne portanti della classe operaia italiana. See the way she plays with the hair. Look at her provocative clay. Nina era una ragazza senza storia, non possedeva memoria né tempo senza di lei. Senza passato, non riusciva a vedere il futuro ed era bloccata in un presente privo di sogni. E chiediamo direttamente all'autrice del Pozzo delle Bambole, Sellerio 2023, cui diamo il buongiorno, di raccontarci chi è Nina, la protagonista del libro, e in che modo queste due grandi istituzioni, l'orfanotrofio e la manifattura tabacchi, hanno costruito la sua storia di personaggio senza storia. Grazie per l'accoglienza e grazie agli ascoltatori. E Nina è una ragazza, è una bambina all'inizio della storia. Noi la conosciamo appena nata il 2 dicembre del 1946. È abbandonata subito in una ruota degli sposti a Lanciano e quindi sì, cresce in un istituto, in un orfanotrofio. E poi la ritroveremo una ventina d'anni più tardi, nel 68, che lavora alla manifattura tabacchi di Lanciano. E la conosciamo nel momento più importante, in qualche modo passato alla storia di quella manifattura, ovvero l'occupazione da parte delle 650 tabacchine che vi lavoravano, che temevano di perdere il lavoro oppure che la fabbrica venisse delocalizzata. Quindi conosciamo Nina che fa parte di due insiemi. Nella prima parte del romanzo è possiamo dire anche relegata, messa in margine, chiusa in questo orfanotrofio. Nella seconda parte fa ancora, appartiene ancora ad un altro insieme, che è quello delle tabacchine. Facciamo quindi la sua conoscenza come un elemento, un piccolo tassello di un insieme più grande. Nel secondo avrà avuto modo, però, proprio, diciamo, anche grazie alla consapevolezza di far parte di un insieme, e mai come in questo caso l'insieme, l'unione fa la forza, scoprirà anche chi è lei nel confronto con gli altri, nella collaborazione per l'ottenimento di una cosa fondamentale come il pane, quindi come il lavoro, e Nina avrà la consapevolezza di se stessa. E quindi in qualche modo costruirà anche la storia che fino a quel momento le era sempre mancata. Ecco, Nina è una donna, una ragazza che ha vissuto per anni la sofferenza, tanto che nel corso del romanzo si dimostrerà incapace anche di riconoscere la felicità. E il contatto con le tante donne del romanzo a cambiarla. Chi sono le donne che hai raccontato all'interno di questo tuo romanzo e in che modo si relazionano con il resto della tua produzione letteraria? Forse c'è un filo conduttore, un fiume carsico che scorre fra i vari romanzi, che unisce alcune di queste donne, alcune di queste protagoniste con quelle dei miei precedenti lavori. Anche se ho scritto romanzi i cui protagonisti erano maschili, però diciamo forse questi ultimi due sono particolarmente appaiati e particolarmente vicini, e intendo il precedente, Alfonsina e la strada, sempre uscito per Sellerio, e questo Il pozzo delle bambole. Sono persone che inizialmente sembravano messe in margine della storia, messe in condizione di non poter approfittare delle opportunità che la vita offre loro, e invece grazie ad un colpo di reni ce la fanno a prendere il destino nelle loro mani. Alfonsina a cavallo di una bicicletta, in questo caso invece Nina scendendo per le strade e rivendicando i suoi diritti. Il Pozzo delle Bambole racconta un mondo che per tante cose è molto lontano dal nostro presente, tanto che i due grandi luoghi raccontati nel romanzo, l'orfanotrofio e il tabacchificio, non esistono più, diciamo per semplificare, come luoghi caratteristici delle nostre città, mentre invece fino al Novecento erano degli spazi ovunque presenti, in ogni piccola, media, grande città. Come è nato il tuo interesse per questi luoghi e perché raccontarli proprio nel 2023? Forse è vero che non esistono più, diciamo così, da un punto di vista di destinazione architettonica. Esistono purtroppo ancora degli orfanotrofi o dei posti dove vengono raccolti bambini che non hanno, che per un motivo o per un altro, non hanno una famiglia, così come vengono raccolti. Quel tabacchificio non esiste più, addirittura è stato anche abbattuto, è stato proprio abbattuto l'edificio che conteneva la manifattura. Anche se però non c'è più, diciamo, questa collocazione, questa definizione nello spazio, nelle nostre città, o perlomeno non è così frequente, secondo me sono dei paradigmi di qualche cosa di molto ben presente, di molto contemporaneo, soprattutto la prima parte, quella dell'orfanotrofio. Io cerco di spiegarla con una mia sensazione di spaesamento. Io credo di non essermi mai sentita fuori dal mio tempo come in questi ultimi anni, senza entrare, come dire, avventurarmi in meandri estremamente introspettivi o psicologici. Mi capita spesso, e per essermi confrontata con molte altre persone so che è una sensazione condivisa, di essere quasi degli spettatori paganti, ma spettatori alla fine non richiesti, di qualche cosa che avviene, di qualche cosa che neanche comprendiamo benissimo, anche a partire dal linguaggio, dalla definizione di alcuni temi, slogan che ascoltiamo, dichiarazioni, e non solo faccio fatica a riconoscermi io come persona, ma faccio fatica anche a riconoscere una prospettiva, una visione per quello che riguarda il futuro, soprattutto una visione che davvero tenga conto delle persone e dei loro bisogni e dei loro diritti. In questo senso mi pare che siamo tutti quanti un pochino orfani o trovatelli. Volevo solo aggiungere una cosa, soprattutto per quello che riguarda il lavoro. È vero che quel tabacchificio, quella manifattura non c'è più, ma la questione del lavoro, soprattutto per quello che riguarda le delocalizzazioni, il ricatto di un lavoro sempre più mal pagato, con sempre più orari di lavoro, con sempre meno diritti, è anche quella purtroppo una condizione estremamente contemporanea. E quindi certo, ho raccontato una storia che possiamo racchiudere in qualche decina d'anni fa, ma con lo sguardo ben puntato sul presente. Non è giusto, mormorò. La frase voleva significare molte cose: la mancanza di equità nel trattamento di orfani e trovatelli, la mortificazione di quell'inutile mostrarsi alle coppie che venivano a scegliere bambini come se fossero soprammobili, la sensazione di sentirsi di peso, un fastidio difficile da sopportare, il mangiare che veniva cucinato come fosse anch'esso una punizione e i ragazzi non avessero un gusto oppure, proprio perché ce l'avevano, andasse umiliato. Le passeggiate della domenica pomeriggio, in fila per due sotto gli occhi falsamente compassionevoli della gente, costretti a tenersi per mano senza poter scegliere il compagno, anzi, se le suore intuivano delle amicizie, evitavano accuratamente di appaiarli e ne mandavano uno in cima e uno in fondo alla fila. Le botte a Carlo, così forti da provocargli lividi nel corpo e nell'animo. E ci sarebbe stato altro da elencare, ma nella sua piccola testa e nello scarno linguaggio non sapeva dargli nome né forma, così si limitò a ribadire quanto aveva già detto. È un'ingiustizia e non mi pento della forchettata, anche se adesso vengo punita. Forse Suor Immacolata sapeva leggere nel pensiero, perché non la castigò, anzi, l'abbracciò stretta stretta. Sei già stata punita abbastanza, siete stati puniti tutti. Ringraziando ancora Simona Baldelli per la sua disponibilità, Perry, Lara, Olga, Alessia, Debs e Frey vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana, sempre con Vallun e sempre sul nostro sito www.radiovallun.info.